fai chiedere se posso mettere qualche amplificato che si adatti allora. Fa una cosa, mettici il diavolo rosso. No, quello è troppo forte. Un DB1000. Il diavolo rosso cos'è, più forte del DB1000? Sì. E come gli amore? Sì. Tanto lei controlla l'apparecchio, no? Poi il cavo non c'è bisogno di tirarlo, di quello morbido, di quello lungo e morbido. Ho capito. Andare. Io come c'è un cavo, tu ti sei cucato. Sì, vabbè. Qua c'è freddo per fa'. Si sente, si sente. Ma il tipo di modulazione che si distante dal microfono, si vibraccia così. Distante. Siamo distanti circa un metro, ma mezzo metro. Vabbè, quanto sono io là? Più o meno, non lo so, io mezzo metro circa, però 60 avanti. No, ma si sente che sei diverso da quando sei in piedi. Si sente un tipo di modulazione, capito? Soltanto ci sono anche io, perché io adesso sono disteso e stiro il braccio. Via via. Kappa kappa. Infatti. E uscì. Via. Vabbè, l'ho amplificato. Sì, vabbè, c'è la ragione Gianni, ma non si è abituato a un amplificato. Anche da lontano. No, ma mi avvicino un pochettino il mobile e riesco a parlare anche con quello normale. Solo che c'è freddo, è un casino qua, ti ghiaccia le mani. E tu ti dai fatto nascondi la mano, poi mi togli la mano e rischiaccio. Picchetta. E no, che non se ne freddi, no, che non si può neppure a petto lungo. Allora, chiappa chiappa, avanti, ma tonnellino alla fine ha fatto, tonne, comunque rimane da Durroni, la capa, ascoltando a doppio ru, Gianni quando inizia ci sono tra le miglia ci sono, ma è come se fossi già a letto. Già sta accorgendo la voce, già linghi dentro sopra. powerful. Non si è sentito Daniele stasera? Ah, con le bighetti chi si cazzo, la sciamana che dice con le bighetti che non sarà il consumatore mobile. Beh, ma sei più costo. Sta recuperando lo spazio. E sta facendo delle messe e poi mette gli apparecchi. Già me l'ha detto già. Perché dice che era un po' grezzi che sta facendo in vernice. Sono grezzi adesso, poi si di vernice. sono sceso in città. Ho comprato un sacchetto già, quanto mi ha, uno, due, tre, quattro ripiani, e l'altro circa 1,20 m o 1,30 m. 1,30 m, ci ho sistemato tutte le cose, le radio attaccate, e gli ho messo le ruote, le ho applicate, le ruote sotto, lo posso spostare, tutto quanto, già fatto e tutto. Cos'hai costruito? Era da montare, era, no, l'ho comprato, già fatto, l'ho soltanto montato, ci ho attaccato le radio, in un piano c'ho le radio, microfono, pur sotto, soprattutto in basso per terra, diciamo, là, per terra non all'interno, però nel ripiano, nell'ultimo ripiano ci sono tutti e due gli alimentatori e basta. E io una cosa simile mi devo fare. Ciao, è buono, bello, bello, andava benissimo, solo era tutto pieno di tarli, era nuovo, cioè era, non era roba vecchia, era tutto tarlato, però ce l'ho buttato. Questo, sai, non l'ho pagato tanto, me l'ho pagato 31 euro, è abbastanza bellino, uno scaffaletto, è molto resistente anche, già va bene. Cioè, prima volevo farmelo io, comprarmi il legno, farmelo io, poi ci trovare cos'è. Quindi l'ho già fatto, però bene, ci ho sistemato tutte le radio e cose, e già va bene. Vabbè, se tu andava a Puglia, è uno così, anche a me va bene. E adesso vediamo un po', perché quel mobile là, ce l'ho fissato i propri baracchini, ho attaccato la tappa sotto, andavo benissimo, poi c'era così per appendere il microfono, e ha fatto bene. Poi gli alimentatori erano sotto, anzi a fianco avevo messi, era un buon quel mobile, solo che poi allora va bene, peccato, si era divampato, era tutto bucato da non darlo. Se lì a legno attacca il tarlo quasi da buchi, però mi sono già intrucciolare, non so cosa attacca un tarlo, spero di no. Io lo stesso li ho fissati a un ripiano, uno dei piani, il piano superiore, li ho fissati con la staffa, in maniera che non suono, in maniera che quando magari tiro lo mic, non le ingaggio tutto intero, li ho fissati, la staffa, ho messo le viti in maniera che non si muovano, e comunque li ho resi estraibili, no? Che si possono estrarre in un secondo, e sviti le due manopoline, traggile fuori, e quindi signore, se la appoggiava sopra, magari che non tiravano mai, che mi veniva tutto appresso. No, non le ho rotte. All'interno ho levato anche i piedi, era troppo alto. E praticamente il piano, di sotto toccava in terra, perché era troppo alto. E vabbè, pazienza. Quando lì avevo preso un appartamento dove stavo lavorando, c'era roba da buttare, perché diciamo che stavamo vendendo la casa, era rimasta un po' di roba vecchia. E c'era questo mobile qua, anzi due, no? Infatti si sapeva che abbia durato, perché quello lì si arriva a un'altra persona, trovi quello lì, no, me lo prendo io questo, mi devo mettere i baracchini, prendi, no, me lo prendo io, faccio altro, lo stesso, tutto ripiani era, e poi male che quello lì era tarlato, è stato pieno di tarli, allora e io poi già me lo compro. Non mi preoccupare, sono a corso di scuola piano piano. Poi ti esci, esci. Ma c'è già un mume dove sempre, no, io per non fare quella fatica che ho fatto di comprarlo, già fatto, tanto tempo non nasce, magari molte volte inizio le cose, se no poi a finire ci vanno mesi e mesi. Da che non c'ho più tempo neanche, non sto facendo neanche più niente, ho dato atto tutto. no, che mi dicevamo intanto. Ma mi ha rincuorato la moto, boh. Licenziato, perché travaglio, era tu per lavorare di travaglio, era da pure, ma poi per recuperare il soldi della moto, e poi mandi via, e non c'è niente da fare, sta giù verso una moto, Gianni, sei addormentato, vero? Ah, hai dormito, sì. Gianni! Sì, sono addormentato. Sei il cugino. Ma tu un buon puglio. Ciao Luca. Ferrato. Il marrendo posso. Sì, che c'è anche Torellino. Ciao Torellino. Ciao Pompo, buonasera. Tu sei da Torellino, Pompo? Sì, ma c'è con noi per radio 2-3, non di più, Sì, andiamo da di me. Va bene. Sì, che c'è anche Gianni. E chi si è dormito, usa Gianni? Gianni mai sta sognando qualche ragazza nuda? Ma cosa? Chiamalo, che lui si risveglia, come sente la voce tua, si risveglia. Sì, ci vorrebbero i pipi, ci vorrebbero. Mettili il lucevino, perché lui si risveglia. Gianni, mi ha già citato, sai? Eh sì, non tu, non lo vedo, dai. Gianni. Mia. Sveglia, abbiamo un polio. Non avete fatto gonfiare gli orecchi. E altri rivugare i guffi, no? Cazzo! Non ci riesco, già davvero, no? Si piglia male. Cioè perché, vabbè, io ho la TV anche. E ascolto, guardo, ascolto la TV e parlo con voi. La prossima volta che se lo metto già diventa un film porno. Sono l'audio di metto, non è come si solleva, non so. Ma se non lo vedo. Ah, c'entra, basta. Ciao, Lisi. Ciao Gianni. Davvero Tintin. Allora, Rintintintin. E cos'è che ci va? Con lo mezzetto e poi faccio il bianco. Perché fai il bianco? Devo trasloccare. Cosa fai? Devo trasloccare. E beh, fai il bianco. Beh, con che cosa parlo? Con il muro parlo. E attaccare tutto, cambiare casa. Vabbè, lo metterai nella casa dove vai. Se si può mettere, sì, se no pazienza. E da quando, anche? A marzo, il 13 di marzo. E dove trovato? Sto cercando, dove trovo il filo. Ma non ce l'hanno più comunale. Sì, ma è un giabbotto, ce l'hanno, non è proprio quello. Cappa, dai, voi riprendete, io vi sono tutti cordialmente. E me ne sto all'ascolto, poi altro poi mi abbiocco. Ciao ragazzi, state bene, ci sentiamo domani, dai. D'accordo, ciao Gianni. Ciao Gia, ciao, buonanotte. Ciao Gia, buonanotte, domani. Popo, detto che te ne vai, sempre a Sassa, dici? Non dici, ritornare qua. Non so cosa sto cercando, però trovo, ti faccio sapere, così mi... te lo dico. Sicuramente dove andrai che ci sarà. mettere un antennino e il barecchino. Sì, ci sarà. Sicuramente l'antennino ci sarà. Ci metti un antennino piccolino, piccolino, ma già va bene lo stesso. Bisogna vedere se è un po' piano, metto l'antennone, non l'antennino. Appunto, bisogna vedere. Poi se con overbuy magari non è neanche problema di piazzare niente, prendi a far sopra e piazza un bel antennone. Io che faccio schiacciare. Non ci fai schiacciare. E me cerco un punto sul monte, in alto, in alto. Chiarillo, se ti capita, se ti capita vicino a Luca ti fa parlare col muro poi. Sì, beh, proprio preciso. Ci andiamo d'accordo con Luca, non è quale problema. Siamo già vicini adesso, figurati da voi. Oh, stavo andando via da lì. Stai andando tu. No, devo andare via da qui. Ma ci sei già 2 anni, 3 anni? No, sempre l'esattezza. Quanti anni? Più di 5, so, 5 o 6, la cosa c'è. Casino, ma è lì proprio un casino veramente. È meglio così, almeno non devo dare una palla a quelle. Cerca un po'. Devi spendere quanto al mese? 300. Ischette. E vale la tua che ho la camera, no? Ti si va, capito, più grande anche. Lì quanto paghi? 300. E allora? Sono un buco. E appunto, per quello me ne voglio andare. Ok, certo. L'unica cartone. Mi devo spostare, perché è troppo piccola. Poi ti fa una camera, poi ti fatti tu, magari la trovi anche con 2 camere. Ma ormai una camera tan piccola ti fai la tua station, metti i baracchini dentro. Sì, per quello, però non posso fare niente. E il contracento non fa allargare. Prendi quello che ha lasciato mia figlia. Senti cosa ho lasciato. Un buco stesso, per carità. Io sono 20 metri quadri, credi che sono? Quanto devo trovare bombole? C'è stato 3 mesi e basta. Non era un locale, per carità. Sembrava tutto a posto, tutto camuffato, tutto dipinto e cose. Dopo 20 giorni si è presentata la muffa che pareva un coso, cioè guarda, una cosa incredibile, abbandonato subito. C'era un grido, ma in realtà è stata controllare i muri. Non ci vuole molto, si passi la mano, si nota subito se è camuffato. Ah, insomma, era lungo la giunta in dialetto, era finita di buchi, cazzapata di quello lì. È un posto malsano, che cosa ti pare? Deve andare una persona a mettere lì. E poi gli draghi buia, tenandi. Adesso costa soltanto, almeno è nuovo. Cercheremo, se trovo, sono fortunato, sono a posto. Sassari vecchio, un po' difficile da trovare posti. Ma tu ti puoi spostare da lì. E allora? Perché non farlo? Dovresti cercare in quartieri molto più. Perché lì affittano soltanto questi piccoli gruppi. Non so come ti definire, ragazzi, vergognosi. Ma io porto anche delle bombole a degli studenti che. E considerare gli appartamenti, che se tu gli dici appartamenti stai offendendo gli altri appartamenti seri. Io non dico che devono essere, io non dico appartamenti affittati agli studenti, che fanno un schifo, ma veramente. Lo so, purtroppo è così. E poi che paga ne mettono in spazi molto ridotti, che poi ce ne mettono 5 o 6 che veramente non meritano di... Cioè dovrebbe pagare il padrone, dovrebbe pagare per la gente che ci va ad abitare lì per necessità. Non so, purtroppo è così. Se hai fatto trovare qualche cosa, quello che trovi ti ci metti dentro, no? Il discorso è quello. Ma guarda, cioè, io ho girato tanti, ho visto, ma qua, per carità, come si fa a chiedere cibo del genere? Ad autentici, quello ti posso dire, ma che cazzo di zingari sono molto più accoglienti di certi posti che ho visto qua. Purtroppo è così, non può farci niente. Io mi sono peggio io. Ti sono sicuro che io non aggiungo che, ripeto, non lo so, definirli appartamenti è un'offesa proprio, autentici, tu cool, ma se non fossi tu cool, sono pure migliore. Storm mi sembra strano, cioè sembra molto strano. Io però non ho detto niente, però mi sembra un po' strano, stavo ascoltando. La capito, sto da dire a 3,4 se non ricordo male, o 3,8. Qual è la verticale che abiti via, Antonio? Quanto qua? Sì, ma c'era un periodo, c'era anche la Firenze 2, c'era la 9 dB, la Firenze 2, però quella è... non c'è più in commercio. Faceva tutta la... dal 26 a 30, più faceva la 144 e 6 MHz, stazionale 1 e 1. Era bella come antenna, bella pesante, pesava 4 kg. Non la trovo neanche più in commercio. Quella tela lì era veramente bella. E c'è la Claudio una di quelle 24 radiali? No, non è quella lì. E ma è simile a quella, dai, mi metto l'antenna, non mi va un mozzo, dove c'era la carica? Quella che c'è il tuo, la 32 Explorer, quella c'era anche Roberto Pinna. Non so, c'è 24 radiali, tutti i vetrovesi, la... quello... non so mica se sono vedo ci visti. Quella bella Firenze 2, c'ha 4 radiali, e c'è una base che pesava 3 kg e qualche cosa, cioè, pesava. Lo stilo era grosso, oh, all'alluminio mi sembrava da 5-6 mm, e a lungo 5,50 o 6 metri, una cosa del genere. Ehi, a chi devo entrare? Ho detto che la mia è tutta in alluminio, non con il radiale vetrovese, ciao Antonio. Quella è la Superstella 24, sono in ascolto. Ehi, ciao Cla, stavo parlando della bella Firenze 2, quella invece tu la scuola. La bella Firenze 2 con la 4 radiale che venava da un periodo, quella era bella, e pesava poco già. Quella già è bella anche questa, la ho io. Dopo la continuate che sono in ascolto, ciao. 9 dB. E poi ho detto che c'era qualche roba, è possibile 9 dB per non tenere il genere, può averne 2, 3, ma non 9. Quella c'è tu qua, cammino 9, no, quella c'è in garage. Quella c'è in garage 11 dB. Cacchio. E 9 la Mantova. No, 7 la Mantova qua. Ma 7 addirittura, non mi ricordavo di più. Questa è 11,5. Ecco, mi sa che ogni pezzo d'antenna è un bel pesante come antenna. È un bel pesante il mozzo, è la, il primo palo, poi stringe una fretta e parecchio, una buona antenna quella. Infatti non so se usarla, insomma non posso modificarla e usare quella per i 10 metri perché tiene più potenza, capito? Vabbè, dai, che non ho voglia di parlare, mi sto ascoltando e continuo ad ascoltarti. Riprendi uguali. Alice. Cava, cava, di Anna Mere. C'è la padre Francesco Volante, la prima volta. Anzi, se lo trovo anche io, la padre fa da un fumo, mi sa appena. Già pesava poco, però tutto mi ha tracciato di zitto. L'ho trovata in cortile con l'antenna, tutta a pezzi. Ma sto pompo, ma ce l'abbiamo il satellite, quanti dB di guadagno? Mi sembra che la... forse 3, 3 qualche cosa, mi sembra che... una cosa del genere. L'unico... la metà di la cosa, il guadagno l'avevo fatto la modifica di mettere il radio Gran Play io. E pompavo un bel. Sto pensando, che cavolo mi aveva fatto con l'antenna? Buh. Non mi ricordo chi è che mi aveva venduta. No, mi rammento. Non ci sono mai stata nessuna altra antenna uguale alla Mantova, simile, dai. Cioè, è proprio simile, non c'è mai stata nessuna altra antenna. adesso, 580 mi sembra che era, non mi ricordo che antenna è, forse l'antenna che c'era Roberto Meccanico, sì, dove è piazzata adesso tuttora, però non mi ricordo che antenna è. Aspetto, siamo alla Firenze 2, quella originale. Lui mi sembra c'è un Bazooka, Roberto, e non mi ricordo l'altra tenda della contatta. Comunque la tenda della Bola era la Super Regibus, l'ho usata io, e poi è arrivata nei punti, non l'ho più ritirata. Guarda che quella che usava la Silvia Splendida. La Silvia non c'aveva la Firenze 2, c'aveva un altro tipo di antenna, si assomigliava, ma non era quella, adesso non mi ricordo come si chiama. E c'è tutta una piazzata, c'è il basamento grande, c'è, è la fotocopia della Firenze 2, ma non è quella, non mi ricordo il nome adesso. Non so, c'erano tutto tipo di antenna, se non mi ricordo, vabbè, comunque va, stavo pensando che mi ha fatto un'antenna, non mi ricordo proprio, era nuova, poi l'ho fatta a Pino Lago, ne ho fatto antenna, a rimanenza del capo, a che ha tagliato, poi gli avevo dato l'alimentatore, il baracchino, quella Fayette Texas, il famoso, se te lo ricordi, 200.000 lire mi sembra, è arrivato tutto. Ciao Roberto Bandito? No, non mi ricordo chi me l'aveva venduta a me, poi io mi avevo venduto tutto a Pino Drago, forse ce l'abbia ancora l'antenna, mi sembra di sì. 200.000 lire avevo comprato un motorino a voi soldi. Vivo, a meno che non è stato da Kawasaki. Ma non mi ricordo che mi sto pensando a Marcolino Giotto, ma mi sembra un bel strano. Mi sembra un bel strano. E Marcolino Giotto che antenna ci aveva un po'. Vivo, non mi ricordo più adesso. Un sacco di anni, Marcolino entrava spesso prima, adesso non sta più entrando. Mancano parecchi anni ormai, sarà già bello sposato quello, e sarà un novità. No, Marcolino abita la ghiera adesso. Io non l'ho più sentito né visto. È sparito lui, è sparito sul vicino di casa, non mi ricordo come si chiamava, faceva un negozio di un laboratorio. Sono partiti tutti più che altro. Ce ne sono ci stati cibi, ci sono visto Marco di tanti anni fa che ho pensato io, ancora in piedi, figurati tu, c'è una vicino alle piscine, che è ancora lì, secca e pesta. Marco lì no, quanto saputo io ora del mattone. Probabile. Marco lì me l'ho detto, e abita, vai l'Alghero, abita l'Alghero. Ma quello di uscire a voi, non a Giussi. Allora, praticamente era. C'ero di fronte io, dai. Perché c'era abbassa l'antenna. Aveva piantato il palo lì in terra proprio, non era sul tetto l'antenna. E ci faceva sentire qua sotto. E prima gli entrava niente, cavolo. Gli entrava. Un bel. E c'erano ruote sui canali. Ruota al 14, ruota al 20, ruota al 30, poi c'è la gente che stava, diciamo, lì, allora, sul 12 ci stava Porto Torres, se non mi sbaglio. Sì, vabbè, adesso non c'è più, non c'è neanche più un cane a Porto Torres, invece sono tutti in alta frequenza a parlare. Vecchi tempi. No, e noi ci organizzavamo tutti quanti, ci davamo tutti appuntamento lì da Ida, e io la facciamo. Poi lì stavamo lì, ci prendevamo un caffè assieme. Una volta siamo parati a fare la porta al balcone, quasi tutti venivano, quasi, ma qualcuno mancava. Ci stavano invitando la birra e un bel lavoro comunque, cioè aveva 4.000 lire tutte le volte da 500 lire. Ci vuole far cose comunque, niente, senta lui, e dopo tutti te lo dico io. Lucasino non è, tra d'ora. Sì, meglio il casino che se 4-5 è la verità. Sai com'è, no, guarda, poi ce ne abbiamo nel canale nostro, e poi un casino qua, capito? È quello il problema. Ma ci metti si a fare i fatti giù. Ancora vivo, Che era tu Bari, sì. Meglio di no, sennò da voi lo sai com'è la gente, fa piglia a fare un guru, bigliane, attaccane, attendene, tu non ci vedi, tuo padre non sa qualcosa, ne sa, ma un casino brutto, è un casino. Non so se il CD l'avete ascoltato, ma avete il CD voi. Negativo, lo so, lo devo buscare, ma tu ce l'hai a masterizzarlo. No, ma comunque già lo sentivo anch'io. Che tempo così incazzava quando lo prendevano in giro. E adesso domani sera già lo faccio sdoppiare quello dopo. Ma tu ridico un poco. In MP3 però. No, non c'è problema. Vabbè. Questo, ho fatto lo sapere. E è fatto male comunque. Chi l'ha fatto ha fatto un bel male. Un bel male. Noi ci senta bene. Infatti stavamo provando un po' a metterlo a posto, ma non è bucato bene. Ci sono pezzi che si sentono bene, ma ci sono pezzi che fanno pietà, non si sente bene. Ma c'è un po' di gente che c'era prima che si sente anche sotto che sfotella, così. Però da lo quasi incazzatissimo, madonna. Quando lo dice il numero del telefono, vabbè, si è rotto le carte di birra, vabbè, visto che sta facendo così, c'ho il mio numero, mi chiami e ne parliamo al telefono. Mi dice un numero di balcone, un numero che non ho mai sentito. Oh brutto coglione, quello lì è il mio numero. Cazzo va. Ma pure questo, non ripeto di niente, è il segreto che lo sapeva tutta la frequenza. Aspetta, poi dice, è vero, scusa, aspetti da un lato, allora, ho sbagliato, e gli ha dato un numero per il balcone. Ma vaffanculo, va. Sì, anche secondo me è la mia, lo numero di casa, ma... via, poveraccio. Vabbè. Ci vuoi fare? Pure io avevo un paio di voci e andavo a incazzare. Più di un paio di voci. Lui stavo ben tardi, anche all'una, alle due di notte. Non quando avevi da scatto. Frequenza. Stavo ben tardi. C'era un po' di gente prima, non ne montavano. Ma secondo me, ogni tanto però qualcuno si risveglia. Per come la penso io, per come sono entrato io, secondo me, anche per esempio se c'è pure magari sei impegni, se è quello e quell'altro, ogni tanto entra a salutare gli amici, cioè ti fa una chiacchierata, e invece un bel niente, cioè proprio zero, riporto zero. E secondo me è una cosa sbagliata, perché chi piace fare il radio deve fare la radio, secondo me. E ce ne sono un bel che ascoltano, un bel però. E già fanno lì a perdere il tempo al baracchino. Capita magari che entrano a casa, accendono, ma non l'ascolto, ma non entrano. Già lo so, ma ne vedo antenne piazzate in giro per Sassari. Cioè, noi non ce lo immaginiamo neanche Cantareggi qui sotto. Cioè, io me lo posso immaginare, ma se lo puoi immaginare anche tu, ma però. È un bel, ce ne sono. Ce ne sono un bel che sono. Ci sono, ma come se non ci fossero. Perché ormai non c'hanno più nulla. E già. Già si divertiva, io la vita però mi divertivo un sacco. Siamo andati pure una volta, abbiamo organizzato con un amico, con un vicino di casa, no? Siccome la cugina si chiamava il baracchino, e abitavano a fianco, lì a San Giovanni, cioè a campagna. Abbiamo invitato a Fabrizio Tonobianco, il fratello, a tutti lì, non vedenti, tutti e due. Tu vieni subito un giorno la chitarra e cantenti. È allucinante, ma bravo, Non è detto che se uno non ci vede non sappia neanche suonare, cioè con lì sanno fare forse qualche cosa più di noi, però poverini purtroppo mancano gli occhi che non funzionano, purtroppo hanno quel difetto, se mancano gli occhi. Bueno, vabbè, bravo. Io diciamo che ci stavo suonando pure io, l'accompagnavo, ma c'era un abisso tra me e lui, un abisso, bravo, molto, molto, molto più bravo. E vabbè, abbiamo organizzato forse una specie di seminata, una rostita, e siamo stati lì. Adesso vi ricordo, c'era Fabrizio, fratello, ci chiamava, come si chiamava fratello Pompo? E poi non mi ricordo più, comunque non si poteva vedere da parte degli avversari. Come parlava prima, dice io sono parente suo di zia, e anche siamo fratelli. Aspetta, Fabrizio l'altro era... affanna, puoi dire. Lo sai che un po' di gente dice, ma perché ancora esiste il baracchino? Ma se uno non lo accende non lo può mai sapere. C'è un po' di gente che magari dice baracchino, cioè non ti è mai capitato? No, a me no. Assolutamente no. Hanno provato, ci sono stati tanti anni e poi hanno emulato tutto. Noi vuoi lasciare comprendita. E cappa, cioè però un bel po' per farla, cioè magari se da un'antenna sta cappa, queste cose qua, e perché ancora esiste, così ti dicono la gente. E poi, sentite, avete già sentito? E diciamo che ci sono state un po' di corna anche. Ah, vero? E no, quello te lo già fa bocca, burro. Cioè, andare di cocco, io sì. E di più. Oh, yeah. E purtroppo c'è anche gente che faceva queste cose, sai com'è. Ma io, a me mi hanno detto anche che facevano anche amoreggiamenti, cose così. Eppure te quelle cose si avrebbe voluto sentire a capo. Oppure ti avessi qualcosa? Ti hai sentito anche tu. La voglia. Gente che passava la destra a sinistra. Poi il marrato ce l'avevi con tutti e sparavi forte, vero? Io? Sì, diciamo che era abbastanza forte dove abitavo prima, quindi non passava lo straniero. Quando ti mettessi una cosa non fare come per il buio, se no niente, non riusciva a brulare, si costava quello. ci avevo fatto anche un periodo a fare carburanti da destra e le altre volte a sinistra, non ci parlavamo tra noi, capito? Figurati tu, nello stesso canale. Ecco un attimo. Vabbè. Oh, allora, sono andato in internet a vedere le Mantova, quanto avevano di guadagno. Allora, la Mantova 1, la Mantova 5, ce n'ha 7 dB. Invece la Mantova Turbo c'ha 8 dB senza bisogno di taratura. Basta poco che ce l'ho, basta andare in internet e te lo dice. Io te l'appoggio. Preparano tutte uguali, così è di potenza. Queste sono 7 dB, sono 7 dB, la Mantova 5, la Mantova 1 sono 7 dB, invece la Mantova Turbo sono 8 dB e senza bisogno di taratura. Ma chi la fa la Mantova? La Sigma, hai guardato? Sigma, Sigma. E quelle sono le originali. Confermami se è così, ma le fa anche la Lemme, le fa, o sbaglio? No, la Lemme fa la Super Lemme, basta, c'è la 5 ottavi, 4 radiali, da quella a 8 e basta. Caccava, però le Mantova sono belle. A me piace molto la Mantova Turbo, anche se dicono che ce n'è il radiale un po', hai capito? Sì, il radiale che dopo un anno se ne scende col fumo, ce l'hai fatta. Non c'è altro, ce l'ho io, ma tu Turbo tu sei solo per quella. Ma io ne ho visto una piazzata, in tanti anni che c'era, per solo un radiale. Dimmi lo tu. A me c'era 10 anni di soprattutto, sono successi tutti i radiali, infatti la spaccata, non l'ho spaccata intera io. Sì, dipende, dipende, non lo so, dice che se le mangiano le cornacchie, staccano, dai. Ma è vero. È vero. Mi sono trovato a piatto dove hai cacciato il radiale della Mantova. Te l'ha mandato Turbo, siccome è ferro, il ferro con l'alluminio provoca il cancro e quindi si mangia piano piano l'alluminio. Dove hai lanciato diventa debole, i radiali sono soli soli. Secondo me hanno sbagliato a farli così, devono farli di un altro materiale, era stato un bombo l'antenna. Se facevano basamente in acciaio, come l'alluminio era stato un bombo. Perché già hai visto già che è anche molto molto molto forte. Lo so. Ciao, andiamo bene. Io mi sta venendo di andare in bagno. In bagno? Ciao, mi prendo per 2 minuti, dai. Mi prendi tu, papà. No, che è finito, l'ho pagato di tutto. Sono più bene già. Ehi, cosa vuoi? Eravamo capito, si vuole fare tutto. Beh. Ui. Ma, mi sa a me, che è giunta l'ora. Dormire. L'ora di pavesini per sta arrivando. Piano piano, presente. Stai guardando Pigliolina? Aspetta, ammettiamo il tempo. Ma non lo sto guardando io, no? Chi lo sta guardando? Alle 50 ore sta guardando, sta girando per il canale, sta girando questa cosa. C'è la cavalcata e di qua di ballo tundurundu. Sì, ma che io sono sempre in prima fila a cavalcata. Tu guarda quando c'è la cavalcata, vai a vedere, io sono il primo, vado a essere mattina per prendere il primo posto. Invece sono quello attaccato alla bottiglia del vino. Lascia stare il vino che fa male. Sei sicuro? che già tiri. Così è subito. È bello farsi portare dagli altri, però. È bello, sì. Io sto cercando un autista a farmi portare, ma no, non ci riesco. Ti fa portare il tuo figlio tra una bombola e l'altra. Niente, quello ciò che mi porta. Non so come prendere il patente e quindi non mi porta. Devo portare io a lui. Ah, vedi, allora, ci tratti bene. Sarebbe ora che portasse lui a me e invece no. Il vecchietto non lo porta lui, anche non è caro studiato. E va bene. Invece studiava, si prendeva la patente e portava lui a me. E invece è il contrario, te immaginate? Non viene più via la patente, sto dicendo io. Basta lo sciroppo per la forza. Sei ubriaco, ti sei portato la patente e ti hai speso 15.000 euro per nulla. Sì, basta lo sciroppo per la tosse, basta lasciarlo. Non è una cosa necessaria, lascia stare e tira la patente. No, signore, io vi saluto, dai. Ecco che arriva la... Che devo fare una telefonata, mi dico. A domani, ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte Luca, ce la risentiamo tutte le prossime. E intanto anch'io sto chiudendo, quello perché anch'io voglio andare a riposare un po' stanotte, va. Quindi ciao Alessio, ciao Luca, ciao chi ascolto e a tutti quanti. Buonanotte e ce la risentiamo tutte le prossime. Io ciao a tutti e due, ci sentiamo alle prossime, state ben bene. Ciao ciao, ci risentiamo, ciao. Non c'è più nessuno qua.